Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci comodi tuoi. Siamo pronti a Questa casa non è un albergo per parlare di genitori e di figli insieme ad Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Abbiamo Carmelo Lauricelli in regia, la parte tecnica, e Giorgio De Luca in redazione e assistenza. Ringraziamoli subito, Alberto, perché oggi avremo tante cose da dire. Temo di non avere poi il tempo. Oggi una grande sorpresa. Eh sì, perché è tornata a trovarci. Il peggiore incubo di ogni genitore. Bambini completamente fuori controllo che rendono la casa un inferno. Queste famiglie hanno raggiunto il limite. Hanno un disperato bisogno di aiuto. Gli rimane una sola opportunità: chiamare SOS Tata. Ogni settimana un team di tate specializzate e molto competenti riceverà la telefonata di una famiglia in crisi e deciderà quale tata è la più adatta per risolvere i loro problemi. La e noi abbiamo la tata, per me quella vera, eh? Ciao Lucia. Ciao, buongiorno a tutti. E voi, noi ce l'abbiamo qua in studio e siamo molto felici, e voi l'avrete a disposizione per l'intera trasmissione. 800 24 00 24, i messaggi al 349 238 6666. Io vedevo, Alberto, la faccia di Lucia intanto che sentivamo la sigla, perché si diverte. Ah certo. Vero? Io mi diverto moltissimo con i bambini, in genere con le persone, a meno che non siano proprio antipatiche. Ma in genere ma soprattutto con i bambini, perché il bambino è genuino, è vivo, cioè sa lo essere vedi. Geniale. Sì, ma poi ti incuriosisce sempre, è un libro che si apre, e quindi io sono felicissima. Però di tu ti sei un po' allargata, Lucia, possiamo dire così. Perché, certo. Allora, voi magari siete genitori all'ascolto, adesso hanno 3, 5, 7 anni e dite: chiamiamo subito perché abbiamo la tata a disposizione. E invece voi fermatevi, perché abbiamo una tata per i più cresciutelli oggi, nel senso che no. Abbiamo scoperto che c'è bisogno di una tata anche per i preadolescenti e gli adolescenti, perché proprio ieri in tutte le librerie è uscito il nuovo libro di Tata Lucia Rizzi, Fate i bravi, e questa volta, tra parentesi, c'è un'età che io dalla tata di SS Tata non mi sarei mai aspettato, perché c'è scritto 10-15 anni. Ma c'è bisogno di una tata anche a quest'età? Alberto è preoccupato perché dice: ne ho 4, la tata non me ne libero più, invecchio con una tata. Non è tanto il bambino che a quest'età ha bisogno la tata, quanto il genitore, perché rischia di farsi venire un esaurimento nervoso, poverello. E quindi, come sempre, il fate i bravi è per i genitori, però in questo libro anche per i ragazzi, perché ogni capitolo ha una parte dedicata ai genitori, che poi leggeranno giustamente anche i figli per controbattere, ma una parte proprio appositamente da leggere dai ragazzi. Da parte dei ragazzi. Gli adolescenti. Allora, io vorrei proprio farvi ascoltare come la tata racconta l'adolescenza nel suo libro. L'adolescenza è infatti quel periodo entusiasmante che, nel bene e nel male, vi consentirà di smetterla di affibbiare la colpa a qualcun altro del fatto che siete bassi. Cavoli, non potevate farmi più alto? Grassi? Certo, con quello che si mangia in questa casa. Poco studiosi? Taci, tu che hai fatto solo la quinta elementare. Poveri? Certo che se sei capace di fare solo l'imbianchino e ti fai fregare da quei ricconi per i quali lavori. Non apprezzati dall'altro sesso, se non ho neanche un motorino scassato. Ma che vi permetterà di prendervi finalmente cura di voi stessi? Che cosa intendo con questo? Beh, per esempio leggere per essere più interessanti, lavarsi e vestirsi adeguatamente per risultare più gradevoli, aiutare per integrarsi con gli altri, lavorare per mettere da parte qualche soldo, magari per una bella vacanza con l'Interrail. Insomma, ragazzi, quello che ricaverete dall'adolescenza saranno la vostra vita e le vostre scelte. Finalmente potrete ringraziare solo voi stessi e smetterla di recriminare su quel che gli altri hanno fatto o non hanno fatto per voi. Alla fine dell'adolescenza, giunti ai fatidici 18 anni, sarete donne e uomini maturi. Sarete ciò che avrete deciso di essere. 800 24 00 24. Lucia, questo andrebbe bene anche per gli adulti, per quando tutti, tu dici smettetela di dare le colpe agli altri. È un insegnamento che io ripeto sempre a me stessa quando dico ma magari così, no, ognuno di noi può fare quello che ha in mano, non c'è niente da fare. Alberto, noi abbiamo fatto qualcosa, abbiamo letto tanti messaggi che sono arrivati e abbiamo cercato di sceglierli quelli. Con la puntata della scorsa settimana vi avevamo presentato alcuni libri da regalare, libri con un messaggio. Ci avete mandato moltissimi messaggi dicendoci perché volevate uno di quei libri in regalo e a chi volevate regalarlo. Ne abbiamo scelto purtroppo solo uno che è risultato vincitore, lo ascoltiamo insieme. Potendo scegliere, vorrei regalare ai miei figli Tommaso e Francesco il libro del Piccolo Principe in versione pop-up. Quando ero ragazzo mi ha fatto sognare, commuovere, volare tra i pianeti della fantasia, che rappresentavano sogni e valori che avrei dovuto esplorare nel corso non solo dell'adolescenza, che stava per arrivare, ma di tutta la mia vita. Ecco, vorrei mettere nelle mani a mio figlio un libro con un messaggio che non si esaurisce con la lettura dell'ultima parola dell'ultima pagina, ma che dura per sempre. E Giancarlo, l'autore, riceverà a casa la versione pop-up del Piccolo Principe grazie alla collaborazione con IBS, che anche oggi ci permette di lanciare un'altra sfida a voi all'ascolto. Sì, c'è proprio un libro caldo, fumante, appena uscito dalle rotative di Tata Lucia che vi aspetta. E siccome il libro è Fate i Bravi, tra parentesi 10-15 anni, vogliamo darlo a chi di voi ci scrive in qualche modo il messaggio forse più bisognoso, più disperato. Perché vorreste una Tata Lucia a casa da voi in questo momento? Qual è il problema che vi attanaglia? Scriveteci al 349-238-6666. Alla fine della trasmissione è la stessa Tata Lucia che sceglierà il messaggio che riceverà il suo libro in collaborazione con IBS. Chiamateci anche, diteci che cosa volete chiedere a Tata Lucia. È qua a vostra disposizione, oggi è proprio una puntata di servizio. E se vi sentite Tate Lucia voi, certo, e quindi siete riusciti a gestire una, certo, situazione, perché ci sono come no, raccontatecele, perché la nostra Tata prenderà appunti, facciamo uno scambio. Certo, ci può essere anche qualche ragazzo che ha voglia di dire come ha risolto una situazione. Magnifico. 800 24 00 24. Flavio dalla provincia di Grosseto, buongiorno Flavio. Buongiorno a voi. Io vorrei porre una domanda, innanzitutto complimenti per la trasmissione, e vorrei porre una domanda a Tata Lucia. Io ho due bambine, una a 3 anni e 3 mesi e una a 10 mesi. Sì. E da quando è nata, penso sia una cosa naturale, da quando è nata la più piccola, anche se uno tenta di non farlo pesare a quella più grande, comunque è un po' di gelosia. Ma nell'ultimo periodo però, cioè la più grande, è diventata molto disubbidiente, nel senso che vuole averla, vabbè, normale forse i bambini, vuole averla sempre vinta lei. Se uno vuole usciamo tutti insieme, no, non vuole uscire, non si vuole vestire, quello che uno gli mette non gli piace, non mangia quasi più. Voglio sapere... Fai capricci a 360 gradi, esatto, ecco, un modo per richiamare l'attenzione. Alberto, Tata, cosa dite? Ma io credo sempre abbastanza poco a questa forma che noi chiamiamo gelosia. A 3 anni questa bambina mi sembra che si stia comportando come una bambina di 3 anni. Mm. Quindi bisogna metterle degli obiettivi completamente diversi da quello che erano fino a poco fa. Perché fino a poco fa chiaramente le si metteva l'obiettivo di mangiare, lei si sentiva bella superiore a tutti perché era sola, eccetera. eccetera. Adesso bisogna metterle qualcosa in più che la stimoli ad avere i suoi 3 anni. Ad esempio? Ad esempio, per esempio, mangiare apparecchia la tavola. Perché questo le dà una sensazione di essere qualcosa in più. Sì. E magari la mamma la ringrazia perché lei l'aiuta. Non misurarla sulla piccola. Quindi, o fare dei paragoni, tu sei grande, perché questo grande sì, agli occhi della bambina diventa quasi peggiorativo. Ce lo siamo sentiti dire tutti. Ecco, ma tu è peggiorativo, capito? Alberto. Sì, credo poi che va proprio considerato che tra i 2 e i 3 anni, come dicono gli americani, sono i terrible twos, quella fase in cui i bambini cominciano proprio a sentire che possono funzionare di testa propria, certo, possono gestire un potere nelle relazioni e quindi si mettono a confronto con il potere di mamma e papà. È molto importante che un adulto non entri dentro un conflitto o una guerra, ma rimanga molto fermo, molto autorevole, molto tranquillo e faccia sentire chi ha in mano un po' il potere. E chiaramente è un potere che mette a disposizione del figlio e la soluzione poi è proprio quella della tata, cioè cooperiamo, facciamo insieme cose belle e ti faccio sentire che sei grande, non perché eserciti un potere capriccioso, ma perché ti metti in gioco facendo delle cose che sono molto belle per te e molto gratificanti per tutti noi. Antonella ci chiama da Salerno. Antonella, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Su che età stiamo, Antonella, a casa sua? Siamo grandi o siamo adolescenti o siamo piccoli? Adolescenti. Ah, bene. Un maschio di 16 anni e una femminuccia alle porte dei 14, è proprio prossima. Il mio problema è quello di capire qual è la strategia migliore per questa fascia di età, ma in particolar modo per i miei figli, che in questo momento attraverso così la non grande applicazione, non voglia di studiare, lo leggo come un sintomo anche di mancanza di responsabilità, perché chiaramente ho fatto capire loro che lo studio in questo momento è fondamentale perché significa gettare le basi per il loro futuro. Però loro sono pressi dai loro interessi, ma io nello studio e che la forma diciamo più esteriore, la manifestazione, la capacità di rendersi responsabili di fronte a loro stessi. Allora, come capire qual è? Lo so che forse è un po' eccessivo, ma se non lo si comincia da adesso, poi diventa sempre... Antonella, lei entra proprio in uno dei temi del libro di Tata Lucia, perché in un suo capitolo lei parla di 2 lascia passare per diventare grandi, dovere e responsabilità, che sono proprio i temi sollevati dal caso che lei ci ha portato in trasmissione. Cerchiamo di capire con Tata Lucia come si possono trasformare queste parole da teoria a pratica. Allora, lo studio è il lavoro dei nostri adolescenti. Qualsiasi lavoro ha di solito un riscontro in soldi, in gratificazioni, eccetera. Così deve essere per i nostri ragazzi. Per loro però è difficile capire che se studiano il latino o la matematica diventeranno dirigenti d'azienda, perché quello che studiano di solito non ha niente a che fare con la vita e soprattutto non dà loro un riscontro positivo. Quindi bisogna con loro stabilire, diciamo, un rinforzo positivo ogni volta che raggiungono un obiettivo nel loro studio, minimo anche, io nel mio libro poi lo spiego, una specie di paghetta relativa ai loro successi, in modo che vedono che arrivano da qualche parte, perché sennò l'adolescente chiaramente cerca più il piacere personale banale, che magari è quello di andare in discoteca, di andare a fare un giro con gli amici, di mangiare la pizza, piuttosto che il riconoscimento che gli viene dato dallo studiare, dall'interessarsi. E quindi bisogna proprio far capire loro che possono raggiungere un obiettivo che gli ritorna come rinforzo positivo. Tra l'altro, Tata, a proposito di paghetta, uscite, discoteca, tu proprio dedichi un capitolo, uscite sì e uscite no. Certo. Allora, mi fai un esempio di un'uscita sì e un'uscita no? Io ad esempio, facciamo il caso, il ragazzino che non, di Antonella non studiava, inizia a studiare, a prendere dei bei voti, la mamma gli dà questo rinforzo positivo, la paghetta piuttosto che il permesso e lui vuole uscire. E a questo punto la mamma e il papà devono dire di sì, perché una promessa è una promessa, certo. Oppure... No, bisogna fare dei distinguo. Diciamo che bisogna sempre fare dei distinguo e sempre mettere degli obiettivi positivi. Nel senso che se il ragazzino vuole andare in discoteca, la mia opinione è che fino a 18 anni in discoteca non ci vanno. Quindi è inutile che io metta questo come obiettivo finale. 18 tu dici, 18, non 16. Sì. Non 16. Quindi sarà dura, però. Sarà dura, sì, ma caspita, nessuno ci ha mai detto che è facile allevare dei figli. Oddio, bisogna scegliere. Se io penso di essere sicuro, io personalmente al giorno d'oggi non sarei sicuro assolutamente di mandare un figlio minorenne in una discoteca, perché assolutamente ci sono dei pericoli in qualsiasi discoteca, per cui io cercherei di organizzare delle cose alternative, per esempio una festa in casa dove posso organizzare un monitoraggio di quello che si beve, di chi ci va, di che cosa si fa, piuttosto che una discoteca. Quindi la ricetta è chiara, il genitore deve avere molto controllo su quello che sta succedendo nella vita di un minore. Sicuramente. Leggo un po' di messaggi, continuate a scriverci 349-238-6666, uno dei vostri messaggi verrà scelto da Tata Lucia e riceverà un libro di Tata Lucia in collaborazione con Internet Bookshop. Vorrei che parlassero in un italiano comprensibile e non con mugugni con cadenza romanesca. Eppure il padre e io parliamo correttamente. Che si può fare? C'è Dario da Vicenza che dice: io di figli ne ho 4, si fa fatica, ma è anche un divertimento. Però è importante che il padre sia padre e non amico. Ciao. E la mamma? E la mamma è un'allenatrice insieme al papà. Ciao, per mio figlio Gianni, la scuola è il bar e il bar è la scuola. Avrei bisogno di qualche tata per gestirlo. Quanti invece anni ha questo sono ragazzino? Sola. Intuisco che è della scuola superiore, e però direi che queste tre parole in fondo, invece sono sola, sono proprio una chiave. Quando i genitori, anche se separati, non riescono a funzionare come una squadra, i figli hanno di sicuro poi qualche difficoltà. Certo. Perché vedete, la famiglia, genitori, sono i miti dei che, volente o nolente, almeno in apparenza magari non si vede, però i ragazzi copiano sempre degli atteggiamenti. È chiaro che adesso noi tutti sappiamo che i genitori di oggi vanno a far colazione al bar, hanno l'happy hour alla sera, vanno, e quindi il bar è un ambiente quasi come fosse la casa per questi ragazzi, che volendo diventare grandi come i genitori usano il bar come riferimento. Prima di dare voce ai nostri genitori, alcuni sono un po' disperati, Alberto. Così è. Forse perché vogliono ricevere a casa il libro di Tata Lucia, perché insomma non è poi così, no? È una bella avventura, quella di crescere i figli e di crescere con i figli. Chiusa la parentesi, vorrei farvi ascoltare quali sono i 7 punti che Tata Lucia indica ai giovanissimi per diventare grandi davvero. Secondo me servono anche un po' a noi. 1. Apprezzate il fatto di essere vivi. Voi siete il futuro meraviglioso che tutti sogniamo e aspettiamo. 2. Ricordatevi che c'è sempre motivo di pace nell'ottica di una vera libertà che è composta di diritti e doveri. 3. Non siate brutte copie di adulti che hanno sbagliato. Siate il meglio di voi stessi, sempre e dovunque. 4. Siate coscienti delle vostre qualità positive. Tutti ne abbiamo e dobbiamo condividerle con chi ci sta intorno. 5. Nei momenti difficili, ditevi semplicemente: certo che ce la faccio a far bene. 6. Fate un passo alla volta e che sia un passo sicuro verso il bene. 7. Segnatevi i vostri successi sull'agenda. Vedrete che presto dovrete prenderne una con più spazio. Questa dell'agenda mi è piaciuta molto, inizierò a farla insieme ad Alberto. Vediamo se dobbiamo aggiungere le pagine o strapparle. Sai che sicuramente sì. O strapparle. Io dico proprio, sono illuminati dall'idea del pensiero positivo. E proprio se io dovessi scegliere anch'io dei sette, quello che alla fine, perché li riassume tutti, cioè imparare a proprio prendere consapevolezza delle cose che stanno funzionando, certo, serve certo. tantissimo a un figlio, mi sento di dire serve molto anche ai genitori, ripensate a quante volte diciamo i nostri figli, se è un idiota, se è un imbecille, invece quante volte abbiamo detto a un figlio, bravo, sono orgoglioso di te. Certo, certo. Bisogna allora andiamo da agenda e intanto andiamo da Wendy che ci chiama da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, prepari anche a lei un'agendina. Esatto, inizio da oggi. Brava. Niente, mi scusate un pochettino per il mio italiano perché non sono un po' emozionata e quindi non mi verrà molto bene. È magnifico, ha un accento che ci piace molto, Wendy, con i semi internazionali. Vada. Esatto, io ho una figlia di 5 anni e mezzo. E poi una bimba appena nata di un mese, sì. Quindi ho dei problemi un pochino abbastanza, non dico gravi perché penso che sono all'inizio, perché una mamma sempre ha da imparare. E quindi questa bambina di 5 anni e mezzo, da quando è nata, anche prima della nascita della mia figlia, ha iniziato a cambiare tutto il suo carattere, che precedentemente era una bambina molto brava e molto intelligente ancora, però dopo la nascita di Giada è iniziata a cambiare tutto il suo atteggiamento, è molto vivace, non riesce ad ascoltare, fa tutto il contrario di quello che noi insomma, le diciamo. Qua ci vorrebbe una tata. Ma diciamo che una bambina di 5 anni e mezzo deve essere vivace, anzi è più interessante se è vivace la vita. Oltretutto andrà alla scuola materna, quindi a poco imparerà a convivere con queste relazioni sociali sempre meglio. Direi di non fissarsi mai su queste cose come se fossero negative, ma invece di sfruttarle per agire positivamente. Possiamo andare da Anna che ci chiama dalla provincia di Cremona perché abbiamo ancora una manciata di minuti. Anna, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno e un saluto a tutti, specialmente a Tata Lucia che seguo spesso anche. Buongiorno. Mi saluti anche Alberto, su. Se no, mi faccio una dedica precisa, proprio puntuale per Alberto, Anna, vada. Mi mette in imbarazzo. Va bene, ma io so che sono un po' anche il suo tatto. E al tuo tono di voce che apprezzo molto, pacato e molto comprensibile. Ecco, bene. Cosa grazie ti manca mille. In questi giorni, al giorno d'oggi. Fermiamoci qua, Anna, sì, sennò diventiamo polemici. Certo. Ma, allora, no, non allora, era questa l'intenzione. No, allora, ma arriviamo a noi allora, dopo queste coccole. La mia domanda era questa, rivolta a Tata Lucia e a voi naturalmente, che trattate sempre questi argomenti riferiti alla famiglia. Io ho una ragazza di 16 anni e mezzo e sono separata, quindi viviamo io e lei da 7 anni da sole. E quello che, a parte la difficoltà delle classiche situazioni di adolescenti, cioè le sfuriate improvvise, le pacate, le riappacificazioni, però quello che riscontro molto è questa difficoltà di vedere in lei uno sviluppo della sua personalità, cosa che la manda in crisi. In che senso? Che manda in crisi spesso anche, cioè lei stessa, nel senso che quando ha le sue crisi di pianto oppure di come sono brutta, come sono grassa, come sono qui e come sono lì, è quello che lei si dice di se stessa di non avere personalità, cioè le sembra di essere, e questo lo riflette anche nel suo modo di vestire, magari una volta veste trasgressivo, una volta veste molto sciatto, una volta sembra quasi un maschio. Sì, è in cerca, è una ragazza in cerca, cioè, Anna, molto, però molto. Ci sta, io lo so che come mamma, io mi metto dalle parti di Anna, io ho due figlie femmine, e adesso hanno 20 anni, quindi abbiamo certo. passato questa età in cui non si sentono né carne né pesce, certo. e in cui non si piacciono, vorrebbero potrebbero essere altro, non hanno la forza di essere altro, la sicurezza per provare, certo, a sperimentarsi. Anna, io le do un consiglio non da tata, le no, stia no. vicino semplicemente, perché non possiamo convincere i nostri figli di quello che loro non sentono, certo, aiutarli però a crescere, e poi anche per fortuna le cose cambiano sempre. Sicuramente, ecco, quindi noi ignorare quelli che possono essere anche dei piccoli, chiamiamoli tra virgolette, capricci o testardaggini del momento. Passare oltre, farle vedere, per esempio, dice è brutta, magari dirle semplicemente, ma sì, però io vedo che hai degli occhi che assomigliano, far vedere la foto di qualcuno, guarda, questi occhi hanno questa espressione bellissima che molto spesso non si trova in giro, cioè prendere le cose un po' alla leggera, ecco. Perché noi mamme, i genitori in genere, di fronte al problema del ragazzo pensano, ecco, è così. Invece non è già, no, quando tu lo guardi non è più così, sta già cambiando, sta facendo, certo. E direi che consideriamo, io trovo anche molto sano che una figlia a 15-16 anni non abbia già uno stile definito, certo, perché certo, quella è l'età che è una straordinaria palestra, io la chiamo un laboratorio in cui ogni giorno si entra, si inventa qualcosa, lo si mette alla prova e poi probabilmente ci si interroga, funziona o non, certo, funziona, bisogna fare tantissime prove per arrivare poi al modello definito, che adesso a volte a 30 anni non hanno ancora i nostri figli, quindi a 15-16 anni ci sta. Molto bene quello che ha detto Nicoletta, stare con un figlio in tutte queste trasformazioni e fare quello che ha detto tata Lucia, trovare il bello comunque, se sappiamo che c'è, se lo vediamo, se sentiamo che lì dentro c'è una cosa importante. E poi per esempio condividiamo delle riviste di moda, delle cose, guardiamole insieme in modo che si possa dare giudizio su altri. Alberto, il messaggio che ha scelto. Stavamo per Lucia. Scegliere quello di Serena. Mia figlia vuole truccarsi, mettere i tacchi, andare a mangiare la pizza col fidanzato. Un giorno mi disse che è stanca di stare a casa e vuole viaggiare e vedere il mondo. Il problema ha 5 anni. E quando abbiamo visto che ha 5 anni, abbiamo detto: tra 10 anni le regaliamo il nuovo il libro di tata Lucia. Allora lo diamo a Pat di Roma, che ha un figlio a cui ha insegnato un buon rapporto di fiducia, ma che adesso pensa più alle ragazze che alla scuola.